Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Come il sole di settembre, quando ormai l'estate se ne va. Ed eccomi tornata, Deborina, sono il tuo sole di settembre, voilà, ti illumino. Bentornata, ci sei mancata davvero settimana scorsa, anzi per tutto il mese di agosto, perché anche la prima me la son fatta da sola, ma ti vedo bella carica, mi fa molto piacere. Da oggi, con il mese di settembre, la donna di cuore e la donna di denari tornano insieme per la felicità dei nostri ascoltatori. Però mi chiedo, chissà che autunno sarà, come si suol dire, sarà un autunno caldo, tu che ne pensi? Non lo so, Debra, se sarà un autunno caldo, questo non posso dirtelo. So che è stata un'estate non proprio caldissima, ma speriamo che comunque tutti voi che ci ascoltate l'abbiate trascorsa bene, che sia stata un'estate positiva per il cuore e anche per i denari, naturalmente. Sì, allora lo speriamo davvero, perché l'autunno per i denari è un periodo invece un po' più impegnativo, in particolare dal punto di vista fiscale. Allora, intanto le associazioni dei consumatori si sono già affrettate a stimare il carico di uscite per contribuenti e famiglie, che dovranno appunto sborsare almeno 2.000 euro. Ma cosa c'è dentro questo calderone di 2.000 euro? A partire da questo mese gli italiani devono fare i conti con una marea di pagamenti, a cominciare intanto dalla scuola, a cui abbiamo già dedicato una trasmissione nei giorni scorsi, e mamme e papà hanno proprio lanciato da cuore e denari il loro grido di dolore. Poi bollette varie, ma soprattutto c'è la scadenza della prima rata della TASI, il 16 ottobre prossimo, per quanto riguarda i comuni che non hanno ancora stabilito le aliquote, ma che devono farlo in questi giorni. C'è poi la Tari a metà settembre. Noi, Nicoletta, sì. Pisapia ha già mandato il bollettino, La simpatica comunicazione. Esattamente. Oggi molti avranno compilato il modello F24 per versare ad esempio la cedolare secca. Sugli affitti, insomma, ce n'è un po' per tutti. Eh sì, Debora, le notizie di denari rendono, come dire, la ripresa autunnale particolarmente difficile quest'anno. Se possibile, ci fanno pesare ancora di più un po' la fine delle ferie, ma direi che è un po' inutile, no? Che dici, farsi prendere dalla malinconia. Anzi, pensiamo a tutti i momenti belli che abbiamo vissuto, alle risate con gli amici, alle emozioni che ci hanno preso il cuore, i tramonti, i profumi. Pensiamo che nessuno riuscirà a rubarceli. Anzi, tutto questo bagaglio che abbiamo accumulato in vacanza sarà il serbatoio a cui attingeremo le nostre energie, che ci verranno utili nei momenti magari un pochino più difficili, quando ci sentiremo giù senza forze. Allora, settembre è tempo di partire, o meglio di ripartire, perché molto più che la fine dell'anno solare, naturalmente il capodanno, è proprio la ripresa di settembre che coincide col momento dei progetti e dei buoni propositi. E quest'anno, ironia della sorte, settembre inizia proprio di lunedì, non si scappa. Esatto, mettiamola così allora, anche se abbiamo di fronte a noi settimane un pochino faticose per l'umore ma anche per il portafoglio, la buona notizia è che le donne di cuore e denari cercheranno di rendere meno pesante questo clima. Come? Cercando di informarvi e di preparare il terreno a tutti i prossimi adempimenti, in modo che possano risultare meno gravosi. Vedremo quali saranno con intanto Cristiano Dell'Oste, il Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano. Buongiorno. Oggi sulle pagine del Sole 24 Ore tante pagine proprio dedicate a questo settembre caliente dal punto di vista fiscale, e poi naturalmente per tutta la consulenza tecnica il nostro esperto fiscale Luca De Stefani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato. Voi iniziate a chiamarci all'800 24 00 24 per sottoporci tutti i vostri dubbi fiscali d'autunno. Avete la sensazione di esservi dimenticati di pagare qualcosa? Oppure la cassetta della posta era piena di bollette, bollettini a compilare, quant'altro? Ma all'800 24 00 24 raccontateci anche come vi sentite con l'arrivo di settembre, che umore avete, perché nella seconda parte della trasmissione ci raggiungerà il dottor Mirko Labella, dagli ascoltatori di Cuore Denari lo conoscono, è un esperto, uno specialista dell'apnei, la psico-neuro-endocrino-immunologia è la scienza che presenta un modello scientifico di conoscenza del funzionamento dell'organismo umano nella sua proprio totalità, ovvero proprio come avviene nella vita. Ci sembra che questo approccio sia molto efficace per spiegare da un lato questa fatica psicofisica che avvertiamo al rientro delle vacanze, ma allo stesso tempo sia utile per darci consigli per ripartire un po' alla grande con il piede giusto. Allora inizieremo proprio ad ascoltare i segnali che ci arrivano dal corpo e dalla mente, dall'ambiente, per mettere tutto in equilibrio. Io già l'idea, Deborah, mi sento già meglio. Era una sì, oggi mi sono proprio fatto un po' di lavaggio del cervello. Bene. Ho detto forza Nico, vai. Sono contenta per te, vedrai che ti passa subito se ti mando a pagare la Tari. Va che ti do anche il mio bollettino. Partiamo. Io non pago le tasse perché non ho più soldi dentro le tasche. Sono troppe le spese in questo paese. Magari in galera arrivo a fine mese. Sul fatto che abbiamo una pressione fiscale consistente, gli ascoltatori possono essere tutti d'accordo, anzi se volete un po' rimarcare questo concetto, 800240024, le tasse però vanno pagate, volenti o nolenti, bisogna ricordarsele tutte. Un modo utile per sapere con un certo anticipo quello che ci succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è quello di dare una sbirciata al Sole 24 Ore di oggi, dove Cristiano Dell'Osso insieme a tanti altri colleghi si è cimentato nella stesura di questo simpatico, ma non tanto, Cristiano calendario d'autunno. Dici subito intanto qual è la prima data calda per i contribuenti all'ascolto. Ma la prima data è proprio oggi, anche se si tratta di una scadenza un pochino di routine, diciamo, non è una cosa particolarmente complessa, però oggi è il primo di settembre, la scadenza naturale, diciamo, sarebbe stata ieri, ma era domenica, quindi slittiamo oggi. Ed è l'appuntamento con l'IRPEF, le addizionali e la cedolare secca per quei contribuenti che non hanno una partita IVA, quindi per intenderci i privati, e hanno deciso di rateizzare il primo acconto del 2014. Ma questa, dicevamo, è una scadenza abbastanza di routine. Quelle un pochino più complicate, anche perché qui c'è da capire come verrà definito un tributo che è tutto nuovo, si paga per la prima volta quest'anno, sono quelle che riguardano la TASI, l'imposta comunale sui servizi. Entro il 10 di settembre, quindi mercoledì della prossima settimana, i comuni devono approvare definitivamente le delibere con le aliquote della TASI, dopodiché ci sarà una settimana per pubblicarle sul sito delle finanze e da lì si potrà finalmente avere un calcolo definitivo, sapendo che in questo caso le scadenze sono poi due: 16 ottobre per quei contribuenti che non hanno pagato l'acconto di giugno e per i quali i comuni hanno deliberato le nuove aliquote, e 16 dicembre per quelli che avevano già pagato a giugno e quindi faranno il saldo, e per coloro che vivono in comuni che non riusciranno a deliberare in tempo entro entro il 10 di settembre. Pagheranno quindi in un'unica rata tutta, esatto, a metà dicembre. Esatto, pagheranno tutto a conguaglio. 16 dicembre, che sarà, certo, anche la scadenza in cui bisognerà pagare l'IMU, ma certo, qui è una cosa classica. Diciamo. La TASI peraltro... 16, un numero caldo. Ecco, appunto, visto che parliamo di autunno caldo, sicuramente quel giorno saranno molto caldi, non lo so, gli uffici postali per esempio e tutti quei luoghi laddove questi bollettini dobbiamo andarli a pagare. Stavamo parlando, Luca De Stefani, vengo a lei, al consulente fiscale, non solo per il Sole 24 Ore ma anche per tanti clienti, le chiedo un po' qual è il suo polso della situazione, quali sono le maggiori preoccupazioni fiscali degli italiani, a parte tutta l'incertezza sulla TASI, perché qualcuno immagina anche che magari, non so, arriverà un bollettino particolarmente salato, no? Non avendo totalmente l'idea di che aliquota verrà approvata magari nel proprio comune di residenza. Ma quali sono le preoccupazioni più diffuse fra i contribuenti, secondo il suo punto di vista? Secondo me, oltre alla TASI, la Tari, un adempimento importante, una preoccupazione per molte persone fisiche non titolari di partita IVA, è l'obbligo di pagare l'FT4 esclusivamente in maniera telematica dal primo di ottobre di quest'anno. Sappiamo che i contribuenti con partita IVA sono già abituati a pagare in maniera telematica l'FT4, però questo non era un obbligo per chi non aveva la partita IVA, quindi i privati veri e propri. Mm-hmm. Questi soggetti, anche se hanno già ricevuto il modello cartaceo dal proprio consulente del lavoro per la rateizzazione di cui si diceva prima, di cui diceva prima Cristiano, dovranno, non potranno utilizzare questo modello cartaceo per andare in banca o in posta per pagare le imposte, le tasse rateizzate. Pensiamo ad esempio anche alla stessa TASI che scadrà il 16 di ottobre o l'IMU del 16 di dicembre. non potranno appunto utilizzare il modello cartaceo se vi è una compensazione, ad esempio. Se vi è una compensazione, se utilizzano un credito IRPEF dell'anno precedente per pagare meno TASI o meno IMU, ecco che non possono più usare il modello cartaceo e devono invece attrezzarsi e collega chiedere alla banca i servizi telematici dell'F24 online e fare i pagamenti tramite la banca, oppure collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate, anche qui chiedendo una apposita password e una ID ed effettuare quindi l'invio telematico del modello F24. Complicazioni su complicazioni, Cristiano. Che insomma qui il problema principale riguarda soprattutto i contribuenti anziani o quelli che hanno meno confidenza con internet, perché la possibilità di fare il modello F24 direttamente dal proprio conto corrente online, sì, home banking, è una comodità notevole. A me, per esempio, e anche Nicoletta, immagino, per la Tari il bollettino del comune è stato proprio accompagnato, sì, dal modulo prestampato dall'F24. Esatto. Il problema vero diventa per quei contribuenti che non l'hanno mai fatto e che erano abituati ad andare in banca, come ricordava giustamente Luca De Stefani, con il modello F24 cartaceo. Per lo più pensiamo ai pensionati. Poi è importante dire che il blocco scatta quando si va a fare una compensazione, come ricordava bene De Stefani, quindi non in generale. Però non è così raro essersi trovati magari ad aver pagato un po' di più l'anno prima, ad avere un'eccedenza di imposta dell'anno precedente, quindi un credito da usare e dire ho questo credito, dovrei pagare 200 euro, ne pago solo 100 e mi gioco i miei 100 euro di credito. E fare questa cosa diventa subito più complicato. E poi c'è anche da dire che è bene non svegliarsi all'ultimo minuto, perché anche chi è pratico di internet, se deve richiedere l'attivazione dei servizi tramite il sito delle entrate, deve prima farsi rilasciare il PIN e poi ricevere per posta la seconda parte del codice, quindi è un'operazione che richiede qualche giorno, perciò bene non arrivare proprio. È la stessa cosa che succede per esempio per chi richiede anche il PIN dispositivo con l'INPS per magari fare l'estratto conto contributivo, lo stesso, la procedura è la stessa. 800 24 00 24. Potete naturalmente seguirci anche su Facebook e su Twitter oppure mandarci messaggi al 349 238 6666. Allora, tornando per un attimo alla TASI, De Stefani, poi torneremo con Cristiano Dell'Oste alle ragioni per cui solo 2200 comuni in Italia hanno deliberato le aliquote sulla base delle quali puoi calcolare l'importo in ogni famiglia da parte di ogni contribuente, ma mi chiedo, una volta appunto che abitiamo in un comune virtuoso da questo punto di vista, tocca a noi poi calcolare, il comune ha calcolato l'aliquota e noi dobbiamo calcolare chiaramente la rata che ci spetta, no? Tocca a noi fare questo calcolo o in questo caso, come per la Tari a Milano, è il sindaco che ci manda tutto un bollettino già prestampato, insomma ci rende le cose quantomeno un po' più semplici? Ecco, è a discrezione del comune inviare il bollettino precompilato, l'F24 precompilato, almeno per il 2014. Dal prossimo anno, in base alle ultime modifiche della legge di stabilità per quest'anno, i comuni dovrebbero essere quasi obbligati ad inviare in bollettini precompilati o a fare i calcoli sia per la TASI che per l'IMU, però anche in questo caso la norma non è molto chiara. In un articolo dice che ci devono essere dei decreti attuativi che dovranno prevedere l'obbligo di compilare questi modelli da parte dei comuni, di inviarli già precompilati, da un'altra parte invece danno la possibilità solo ai comuni di effettuare questo servizio. Quindi insomma è una facoltà, non hanno questo obbligo i comuni, certo che se ci rendessero quantomeno da questo punto di vista le cose semplici sarebbe tanto un piccolo aiutino di guadagnato. Invece servirebbe. I comuni, Cristiano, andiamo un po' alle motivazioni per cui i comuni sono così lenti nel deliberare le aliquote. Su 8.000 comuni hai calcolato tu questa mattina sul Sole 24 Ore, al momento l'hanno fatto solo 2.200, però hanno ancora 15 giorni di tempo magari questa cifra per poter. 2200 era il numero di quelli che l'avevano fatto entro maggio. Adesso allora siamo un po' più avanti. Sì, adesso siamo intorno alla metà. 4.000 circa, esatto. Quindi però ne mancano all'appello ancora 4.000. Ne mancano metà o poco meno di metà. I contribuenti che abitano in questi comuni pagheranno probabilmente allora tutto a dicembre o comunque in questi 15 giorni ci sarà un rush? Allora, bisogna dire due cose. Intanto che appunto il termine per l'approvazione scade il 10 di settembre e molti comuni hanno avviato tutta la procedura per l'approvazione ad agosto. Perché ad agosto? perché in molti casi ai primi di agosto, tra la fine di luglio e i primi di agosto, gli amministratori locali hanno conosciuto l'entità dei tagli dei trasferimenti in seguito al decreto IRPEF, quello famoso sugli 80 euro del Premier Renzi. Da qui hanno dovuto riaggiornare i calcoli, sì, o comunque farli in via definitiva per la prima volta. Quindi molti comuni stanno arrivando al voto in questi giorni. Dopodiché, appena fatto il voto in consiglio comunale, si può trasmettere la delibera al sito delle finanze, che si prende un po' di tempo per pubblicarla online. Quindi ci potrebbero essere in questo momento parecchi comuni che stanno approvando o hanno già approvato e non hanno ancora visto la delibera su internet. Quindi questo spiega un pochino il ritardo con cui le stiamo vedendo. Certamente non arriveranno tutti a 8.000. Questo è un dato anche statistico, insomma, non tutti ce la faranno. Chi non ce la farà deliberare farà sì che i propri contribuenti vadano a pagare tutto a dicembre, dicevamo prima, ma come? Con un'aliquota prevista dalla legge, che è quella dell'1 per 1000, appunto la TASI con aliquota all'1 per 1000, senza nessun tipo di detrazione, diversamente dall'IMU che aveva invece una detrazione fissa prevista dalla legge di 200 euro, eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il vero rischio è che chi va a pagare al 16 di dicembre con l'aliquota fissa da parte dello Stato si troverà in una situazione un po' strana, per cui le abitazioni con una rendita catastale bassa, indicativamente intorno ai 400 euro, fino, diciamo da 400 euro in giù, pagheranno più di quello che avevano pagato con l'IMU prima casa nel 2012, quando c'era, perché poi l'anno scorso, ricordate, c'è stato tutto quel meccanismo di sospensione, abolizione, poi minimo dicembre. Diciamo, prendiamo come riferimento il 2012, che è l'anno in cui l'IMU era in forma standard, diciamo così. Ecco, la TASI ad aliquota base dell'1 per 1000 risulta più cara per quei contribuenti che abitano in case con una rendita catastale fino a 400 euro. Quelli che invece abitano in case dalla rendita catastale superiore a questa soglia pagheranno un pochino meno. Questa e via via meno man mano che la rendita catastale insomma, aumenta. Anche per ragioni di equità fiscale, allora questo è un bene che i sindaci deliberino. Eh sì, ecco. Questa è esattamente la posizione dell'Associazione dei Comuni, infatti, che ha detto sbrigatevi a deliberare, cari sindaci, nostri associati, perché così potete anche introdurre, se ce la fa il vostro bilancio, delle detrazioni e riportare un po' di faranno equità. Quello che vogliono, se vogliono mantenere tutto inalterato fino a dicembre pagheranno poi con le prossime elezioni, no? Assolutamente sì, insomma i sindaci devono darsi una mossa, come si dice. I nostri ascoltatori stanno già chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, e noi andiamo a Roma perché ci aspetta Daniele, che salutiamo. Buongiorno Daniele, benvenuto. Buongiorno. Il primo ascoltatore del primo settembre. Esatto. Contento? Speriamo che la domanda sia una domanda valida. Nel senso, io volevo capire, per la seconda casa, per uno che ha già pagato l'IMU, la TASI si paga in compensazione, come la differenza fra le due, facendo il conteggio e vedendo qual è superiore? Grazie. Oppure no? Allora Daniele, Cristiano, ti cimenti tu, vado da Luca De Stefani. Ma posso, no, posso già dire io qualcosa? Certamente bisognerebbe capire in che comune si trova questa casa, perché... Daniele, Roma? Sì. Perfetto, allora... Sindaco Marino? Esattamente, allora in questo caso bisogna avere sotto mano la delibera di Roma, cosa che io adesso non ho, però diciamo il principio in generale. Il principio è questo, che sulle abitazioni diverse dalla prima casa si paga l'IMU, come era l'anno scorso. Okay. Poi, se il comune lo prevede, si aggiunge all'IMU la TASI, con però un tetto di imposta, nel senso che normalmente la somma di IMU più TASI non può arrivare oltre il 10,6 per 1000. Poi il comune ha, diciamo così, una sorta di bonus, di maggiorazione ulteriore di imposta che vale fino allo 0,8 per 1000 e può decidere come dividerlo tra la prima casa o gli altri immobili. Quindi in teoria sulle seconde case si potrebbe arrivare a pagare fino all'11,4 per 1000, ma questo solo a condizione che il comune metta tutto l'aumento sulle case diverse dall'abitazione principale. Quindi Daniele principale. Cosa deve fare per cristallizzare la sua situazione, per sapere... Allora, se lui può andare a vedere la delibera, perché il comune di Roma è uno di quelli che hanno approvato la delibera. Se lui TASI non si volesse scomodare ad andare a vedere la delibera, perché in totale buona fede aspetta che sia il comune a farsi vivo con lui come no, contribuente? Non è saggio, nel senso che siccome il comune di Roma è uno di quelli che non avevano deciso, deve andarsi a vedere la delibera entro il 16 di ottobre, oppure rivolgersi a un professionista o a un CAF o a un qualche assistente. Se ti scordi qualcosa devi muoverti tu, eh? Eh sì, perché c'era nella legge questo principio secondo cui i comuni avrebbero dovuto calcolare, mandare a casa i bollettini, ma non è stato poi attuato e comunque non è un obbligo sanzionato, quindi diciamo che se il comune non mi manda a casa il bollettino della TASI e io dico beh non me l'avete mandato, quella non è una scusa e quindi non conviene. Marco ci scrive: a sentirvi passa la voglia di comprare casa. Cristiano. Diciamo, dire, le tasse sulla casa noi abbiamo un regime così rispondiamo però perché no, possiamo rispondere con una battuta che non è una battuta, nel senso che in realtà in questo momento comprare casa paradossalmente risulta conveniente se guardiamo i prezzi di mercato, nel senso che siamo in una fase di forte contrazione, le compravendite su base annua sono praticamente dimezzate rispetto al picco del 2008 quando c'era diciamo la facilità di ottenere un mutuo da parte delle banche, cosa che oggi non è più così, quindi diciamo che certo c'è una fiscalità molto pesante, d'altra parte i prezzi stanno diminuendo, quindi certamente non è detto che l'operazione non convenga, dipende dalla facilità, dalla possibilità di ottenere il mutuo o meno, dipende anche se l'acquisto è come abitazione principale o per investimento. Chiaro che per investimento bisogna farsi bene i propri conti, perché lì bisogna confrontare la redditività delle diverse alternative. Oggi è una fase in cui anche bot e borse non è che diano soprattutto i bot rendimenti molto alti, dico bot per dire i titoli di Stato, perché le borse sono sui massimi, diciamo che è come dire salire adesso in borsa forse non è l'idea migliore secondo me, però poi tra poco andremo a sentire le borse. A proposito di questo, Cristiano diceva bisogna fare i conti, ecco, io non ho sentito parlare di IVA. Cristiano, a settembre non si paga? Allora l'IVA si paga come sempre, no, non ne abbiamo parlato perché anche qui siamo nel... Non volevamo, ma soprattutto siamo nella routine in qualche modo, nel senso che per l'IVA non abbiamo grosse novità, almeno da un punto di vista normativo. Poi su questo De Stefani magari ci può dare anche qualche dettaglio in più. Certo. Cuore e denari. Sono finite le vacanze, purtroppo, per fortuna. Allora, voi siete tra quelli che restano malinconici per settimane o, anche se forse non lo confessavate, la moglie, il marito, i figli, gli amici, siete tra coloro che a un certo punto hanno voglia di tornare a casa, di rimettersi all'opera, di riprendere i ritmi e gli spazi di sempre. 800 24 00 24 se volete intervenire per raccontarci con che spirito affrontate la ripresa, se con energie e voglia di fare oppure con un umore un po' tendente al grigio. Ne parleremo tra poco con dei consigli per riprendere con energia e vitalità. 800 24 00 24. Le presento la nuova ballada, ha un ritmo davvero originale ed è la prima asuendo sociale, perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse dell'erario e voglio dire ai ragazzi e alle ragazze, bisogna pagare le tasse. Si tiene la barca, la roba de marca, la macchina di Giorgio da Bergamo scrive: ma perché il primo giorno ci dovete stressare con le tasse? Cattiva digestione dello yogurt. Allora, qua, se avessimo affrontato un tema più leggero, in molti avrebbero sicuramente contestato: guardate che dobbiamo pagare un sacco di tasse, c'è poco da ridere. Non siamo mai contenti. No, ma noi affrontiamo adesso le tasse, abbiamo l'umore un pochino giù, abbiamo la testa piena di pensieri, però, preoccupazioni, ma nella seconda parte della trasmissione abbiamo un esperto che ci aiuterà a vedere le cose con un po' di distacco. E poi quello che dico io è che se le cose le prendiamo per tempo, procediamo informati e le cose sono un po' più, gli impegni, anche quelli finanziari, sono un po' più leggeri, per me. Poi, se gli altri non sono d'accordo, pazienza, perché la mia teoria sia assolutamente universale. Allora, comunque, il calendario delle tasse da pagare non è proprio il miglior regalo di bentornati, di questo ci rendiamo conto, lo facciamo però per il vostro bene, per evitarvi brutte sorprese. Con noi questa mattina Cristiano Dell'Oste e Luca De Stefani. 800 24 00 24, ancora avete tempo, oltre 10 minuti, per farci le vostre domande su questo argomento. Ed erano già pronti Laura da Pescara, a cui diamo il benvenuto e la precedenza rispetto a Massimo, che ci chiama dalla provincia di Varese. Laura, buongiorno e benvenuta. Laura, eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per le informazioni che ci date. Grazie. Io sono una pensionata anziana, ho sempre pagato con l'F24. Mm-hmm. Posso continuare a pagare con l'F24, la TASI, l'IMU? A Pescara il comune ha già deliberato, Laura? Quindi lei sa già quello che dovrà pagare? No. A Allora, Luca De Stefani, per Laura che cosa rispondiamo? Sì, dal primo di ottobre, come si diceva prima, saranno obbligati a effettuare il pagamento telematico sia chi compensa anche un euro di credito d'imposta, ma anche chi deve pagare più di 1.000 euro. Quindi anche senza nessun tipo di compensazione, chi ha un importo di F24 totale superiore ai 1.000 euro e ad esempio con l'IMU e con la TASI questo importo appunto può essere superato, c'è l'obbligo di effettuare il pagamento tramite sistemi telematici di pagamento delle. Quindi no, mi faccia capire, Laura, io non credo che se avrà un'abitazione di proprietà regolare, no? Non andrà a pagare una cifra di questo tipo, adesso anche se il sindaco di Pescara si fosse sbizzarrito ad applicare aliquote elevatissime, ammettiamo che paghi una cifra più contenuta e ragionevole, quindi cosa deve fare Laura? Beh, se paga meno può anche pagare sempre con F24 cartaceo, se abbiamo un importo inferiore ai 1.000 euro di F24 si può andare in banca in posta. Quindi può continuare a utilizzare questo modello, Cristiano? Il discrimine è la cifra di 1.000 euro, appunto, come diceva giustamente De Stefani. Certo, con una sola abitazione principale è difficile, anzi diciamo molto molto molto raro, poter andare oltre i 1.000 euro. Se si cominciano ad avere più abitazioni, la somma di IMU e TASI può andare oltre i 1.000. C'è da dire però una cosa, adesso qui chiedo anche conforto a De Stefani, ma io credo che la somma valga per il singolo pagamento, quindi diciamo che al 16 di ottobre vale la soglia, diciamo, di 1.000 euro va riferita all'F24 che si presenta il 16 solo per di ottobre. La TASI, Poi certo, se al 16 di dicembre ci saranno altre imposte, chiaramente lì di nuovo si dovranno conteggiare i 1.000 euro. Quindi può ma anche per darsi, ogni singolo pagamento. Per ogni singolo pagamento, quindi può anche darsi che magari il dover pagare in due tempi faccia sì che non venga superata la soglia limite di 1.000 euro. È corretto, e poi ricordiamolo comunque per la TASI è possibile anche effettuare il pagamento tramite bollettino postale. Quindi insomma Laura ha ancora i canali tradizionali, quelli che lei preferisce e che la mettono in una relazione di maggior conforto con il fisco. Può pagare tranquilla. Una bella sorpresa. Sì, a Massimo dalla provincia di Varese. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno. Massimo è un sindaco. Sì, sono sindaco della provincia di Varese e non applicherò la TASI del libero lotto di settembre, e come ho fatto per l'IMU e la TARES non la farò pagare ai cittadini. Massimo, come è riuscita a finanziare questa operazione? Perché no, i sindaci la pulizia andava fatta negli anni passati quando, tra virgolette, passatemi i termini, c'erano un po' più di vacche grasse, quindi snellire il personale. Ho abbassato la spesa del personale di circa il 30%, passando da quasi 1 milione di euro intorno ai 700.000 euro, e soprattutto è stato stabilizzato nei 140.000 euro, che era il mio valore dell'IMU del 2012, che è stato un po' temerario, il bilancio quadro ugualmente, e quindi in automatico mi trascino questi 120-130.000 euro all'anno da giocarmi per tenere le basse vele. Massimo, lei ha detto, sì, sono sindaco di un comune in provincia di Varese, ci dice qual è? Lonate Ceppino. Quanti abitanti? 5.000. No, era per capire anche 6 milioni. No, certo. Beh, ma è chiaro che magari chi è più piccolo riesce un po' meglio a gestire. Però il costo, la cosa fondamentale, mi spiace dirlo, ma è il personale. Se uno fa un accordo con i cittadini, il mio comune al pomeriggio è chiuso, a sabato mattina è aperto dalle 8 alla 1 e lavorando sul personale è l'unico modo per andare avanti e avere futuro per l'amministrazione. Non sono molto d'accordo, perdonatemi, con il tecnico di prima, in quanto queste continue tassazioni sulle case, io anche l'IMU la tengo bassa, che è al 9 sulle seconde, no? Invece incide molto, perché la povera signora che ha un terreno edificabile, certo, è della sua unica fonte di reddito, gli arrivano certe bastonate tra IMU, TASI. Guardi Massimo, questo discorso con Cristiano Dell'Oste l'abbiamo fatto centinaia di volte nel corso di tutto l'anno, e abbiamo visto appunto che il fatto di abolire l'IMU secondo l'impostazione originaria e aver poi sparpagliato tutta la tassazione sulla casa con queste nuove modalità nella IUC complessivamente, no Cristiano, in realtà ha reso appunto l'imposizione fiscale nel settore immobiliare molto più alta rispetto al passato. C'è anche da riflettere su una cosa, adesso il sindaco diceva l'IMU la tengo bassa, la tengo al 9 per 1.000. Intendiamo, 9 per 1.000, ricordiamoci cosa succedeva nel 2011 con l'ICI, il livello massimo era il 7 per 1.000, e lo calcolavamo su una base imponibile rivalutata con il moltiplicatore 100. Adesso applichiamo il moltiplicatore 160 e riteniamo bassa, perché obiettivamente non è tra le più alte, non è sbagliato quello che dice il sindaco, riteniamo bassa un'aliquota del 9 per 1000, quando molti comuni sono già al 10, 10,6, che è il massimo. Quindi si vede già nei numeri il rincaro che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 anni. No, che ne pensi però dell'esperienza di questo sindaco? Comune piccolo, naturalmente 5.000 abitanti, è chiaro che la gestione del bilancio sarà problema differente rispetto a Milano, a Roma, poi non ne parliamo perché lì è veramente un ginepraio, però qui si può fare. È difficile dirlo. Diciamo una cosa, noi abbiamo visto, lo confermano anche i dati ufficiali rilevati dall'ANCI, dall'Associazione dei Comuni, che nei piccoli comuni, quando dico piccoli intendo sotto i 5.000 o sotto i 15.000 abitanti, perché sono le classi insomma che vengono così monitorate, ecco, nei piccoli comuni le aliquote IMU sono state contenute di più che nei grandi comuni. Difficile dire poi, perché a prima vista si potrebbe pensare che un grande comune abbia maggiori margini di risparmio rispetto a un piccolo comune, anche magari come possibilità di cedere immobili e così via. Invece abbiamo visto che i piccoli comuni hanno fatto meno fatica dei grandi a tenere le aliquote basse. Il fatto che sia un dato medio mi fa pensare che non è soltanto la bravura degli amministratori, ma è proprio anche la struttura, certo, la struttura del bilancio di queste diverse città. La concediamo l'ultima domanda ad un'ascoltatrice? Assolutamente sì, perché abbiamo Marianna che ci chiama da Pordenone all'800240024. Benvenuta Marianna, bentornata. Che ha probabilmente la curiosità sull'acronimo TASI. Buongiorno, niente, una cortesia, si chiama servizi indivisibili, ma quali sono questi servizi? Posso avere una specifica? E perché si dice indivisibili? Mariana, ce l'ha lei qualche lampione vicino casa sua? Sì, certo. Ecco, chi la paga quell'illuminazione là? Il lampione c'è sempre stato, io prima come lo pagavo? Mariana, altro che. Allora, i rifiuti si pagano con una voce a parte. Faccio un attimo sbizzarrire Luca De Stefani, perché sennò l'abbiamo fatto parlare poco questa mattina. De Stefani, se un contribuente viene da lei e le fa questa domandona. Prima il servizio del lampione, la luce del lampione viene pagata probabilmente dai trasferimenti statali che sono stati ridotti per i comuni, e quindi ora vi è stata una divisione delle imposte. Abbiamo appunto la TARI, che è l'imposta sui rifiuti, la TASI, imposta sui servizi indivisibili, e l'IMU invece è sul patrimonio immobiliare. Benissimo, speriamo di aver accontentato Marianna, l'avremo convinta, Cristiano? Chi lo sa, vedremo, magari ci ritelefona. Ecco, comunque insieme a magari anche per fare un piccolo elenco, oltre ai lampioni, le fognature. Sì, diciamo che sono tutti quei servizi che non hanno una tassazione o una tariffazione specifica, per esempio appunto i rifiuti hanno la TARI, l'asilo nido ha una sua specifica tariffa, e invece ciò che non va ad essere diciamo pagato direttamente da chi lo usa finisce in questo calderone, quindi anche la polizia municipale, per esempio la manutenzione delle strade. Sarò contenta, però, Marianna, di sapere che paga lo stipendio anche ai vigili urbani, sì. Che sono quelli che le danno poi la multa. Pure la multa. Sì, sì. Benissimo, sono tutti i temi sui quali sicuramente faremo compagnia ai nostri ascoltatori ancora purtroppo per le settimane a venire. Quindi dobbiamo predisporci al meglio a tutte queste scadenze. Hai qualche suggerimento? Assolutamente sì, sì, sì, bisogna soprattutto avere sempre il Sole 24 alla portata di mano, i nostri esperti, ed ascoltare Cuore Denaro. Esatto. Cosa c'è di meglio? Intanto salutiamo Luca De Stefani, grazie Luca e buona giornata. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Grazie Cristiano, grazie a presto. A voi, buona grazie. Giornata. Cuore e denari. Vai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Vai settembre, tornerò, sono pronto. E in vacanza si stava così bene, adesso eccoci di nuovo qui a parlare di tasse. Si stanno un po' lamentando i nostri ascoltatori, ma noi lo facciamo per il loro bene, anche per il nostro. Esatto, se uno è informato, secondo me, come dire, tutto quello che deve fare è un pochino meno doloroso, direi, no? Ma non ci sono solo le tasse, il rientro può essere caratterizzato anche da tutta una serie di piccoli disturbi, fastidi che ci buttano giù, si fa fatica a carburare, l'umore insomma tende un po' al grigio, la mente altrove, la voglia di fare latitante, però non c'è da preoccuparsi perché è tutto nella norma. Chi è tornato da poco sta per tornare, lo sa, passare dal relax totale al lavoro è dura, ma come si dice, Deborah, ma il comune è mezzo gaudio. Tanto tocca a tutti, per cui... Allora, che dici se chiedessimo ai nostri amici da casa di aiutarci un po' a fotografare bene la situazione, di darci, come dici tu, il polso della situazione? Si accettano naturalmente segnali positivi e segnali negativi, ma anche suggerimenti e ricette. 800 24 00 24. Se volete scriveteci naturalmente anche su Facebook, su Twitter, i vostri messaggi sono naturalmente bene accolti anche sui nostri social network. Daniela ci racconta: io non mi sono mai allontanata dalla città, in questi giorni ho continuato a lavorare in compagnia di tanti buoni libri e di Radio 24 insieme alle vostre voci. Ha fatto bene. Brava. Vedi che così farà un rientro alla grande. Ma perché si sente un po' acciaccato, oppure chi vuole darci magari i suoi suggerimenti per una ripresa a 5 stelle, abbiamo in linea con noi un grande esperto, il dottor Mirko Labella, psicoterapeuta in Torino. Dottor Labella, buongiorno. Buongiorno. Ed esperto di PNA, psico, neuro, endocrino, immunologia, giusto? Esatto. Ecco. Esatto. Dottor Labella, tornare al lavoro e alla quotidianità è sempre un po' difficile, bisogna riprendere il passo e farlo con la testa e con il corpo. No, insomma, bisogna un po' ambientarsi. La stessa cosa succede anche quando andiamo in vacanza. Molti, io per prima, ci mettono un po' a staccare la spina, passano i primi giorni di vacanza un po' imbambolati. E la stessa cosa succede anche quando torniamo a casa. Si fa fatica a passare dal relax ai ritmi di lavoro, agli impegni quotidiani. Insomma, i passaggi, i cambiamenti vanno sempre un po' metabolizzati e richiedono un po' di tempo. Dottor Labella, quando si rientra dalle vacanze, diciamo anche da un periodo di astinenza dal lavoro, ci si trova un po' come Cenerentola a mezzanotte, si rompe un incantesimo, eppure non si dice, perde la scarpa. Non si perde la, magari qualcuno ha la testa altrove e la scarpa la perde. Ma che cosa succede? Perché alla fine delle vacanze ci sentiamo spesso più spossati che quando le abbiamo iniziate? Allora, possiamo dire che partire è un po' come morire, ma anche tornare ai suoi svantaggi. Questo è riferito al fatto che si affronta un cambiamento e quindi, come tutti i cambiamenti, anche le vacanze lo sono. Quando siamo in vacanza molto spesso si ha una modificazione di quei neurotrasmettitori, di quegli ormoni, come per esempio l'adrenalina e il cortisolo, che sono molti che ci mantengono attivi durante le nostre attività. Ovviamente si cambia molto spesso anche la variabile ambientale, quindi il clima, il cibo che si mangia, il cibo sonnoveglia, la temperatura. Tutto questo non deve spaventare perché fa parte di un fisiologico washout, cioè una cancellazione, una reset insomma dei nostri neuroni che cancellano i passaggi mnemonici, quindi al ritorno dalle vacanze è un pochino veramente come trovarsi, si rompe l'incantesimo, ci si trova un pochino spenti. Questo non deve chiaramente preoccupare. Molto spesso si sente parlare quindi di stress da rientro oppure di post vacation blues. Questo vuol dire che si tratta di quando non si riesce a staccare mai la spina, quando non ci si smette mai di preoccuparsi, se si hanno sintomi come per esempio la cefalea, la nausea, tachicardia improvvisa, e questo stato di dell'umore si mantiene per più tempo, allora si è nell'area dei disturbi d'ansia. Invece io direi di non spaventarci perché già ci sono le tasse che hanno spaventato i nostri ascoltatori. In questa seconda parte della trasmissione vogliamo proprio andare distenderli, soft, occuparci del nostro benessere. Posso chiedere al dottor Labella com'è che ha detto che si chiama questa, chiamiamola così, sindrome post vacation blues. Come il genere musicale. Proprio. Infatti gli antichi schiavi cantavano proprio nei campi la loro disperazione, e allora molto spesso rientrare porta a questo stato di disperazione. In Inghilterra lo chiamano così, e quindi post vacation blues. Quello che volevo dire è che insomma, proprio perché al ritorno abbiamo una dimensione sociale che non è utile, perché voglio dire lo stress maggiore ce lo impone il contenitore in cui viviamo, quindi questo momento la pressione fiscale, possiamo lavorare dal punto di vista biologico, per esempio curando la nostra dieta, riuscendo a racimolare ancora dei raggi di sole, riuscendo a dormire, perché uno studio recente dell'Università di Rochester ha dimostrato come un sonno regolare pulisca la mente da delle scorie neurotossiche, quindi dai pensieri e dalle emozioni che abbiamo accumulato negativi, e poi avere una ripresa graduale, quindi non mettersi degli obiettivi giganteschi al rientro, ma proprio anche sia nell'agenda sia nel modo di vestire, passare dai pantaloncini all'abito con molta gradualità. Quindi vedi che io oggi ho portato un paio di bermuda, Marco, fatto bene, magari andare in giro in short, adesso va con il bermuda, no, e poi arriverà al pantalone anche lungo. Perché naturalmente il sole a Milano è venuto fuori tutto adesso, chiaramente adesso che siamo rientrati dalle vacanze, per cui io sono stata un po' come Fantozzi, perché il maltempo me lo sono portato in giro per l'Italia. Forse a te, cara la mia amica, è andata meglio, però. Sì, mi è andata meglio, ma io sono contenta di essere tornata, e Luciano ci chiama da Bergamo all'800 24 00 24. Luciano, buongiorno a tutte e due, bentrovati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come ha fatto la domanda alla sua collega, io sono contento di essere rientrato dalle vacanze, ma non tanto perché le vacanze sono finite, ma per il fatto che la stagione che preferisco in assoluto è l'autunno, a cui aspetto tutto l'anno, purché arrivi l'autunno, e mi compensa, mi ripaga. E volevo sapere come mai sono abbastanza rari i casi così. Certo, perché tutti aspettiamo un po' la primavera, magari, Luciano. Stagione, no? Del risveglio. Invece c'è chi magari è appassionatissimo di neve. La primavera e l'estate sono quelle che amo meno. In assoluto la primavera. Luciano ama l'autunno e questo gli fa gioco, dottor Labella. Fortunato, no? È comunque una bellissima stagione, per carità. Dottor Labella. Esatto. Anche l'autunno ha i suoi vantaggi. Luciano è la testimonianza del fatto che non è per tutti e non è sempre vero che questo ritorno è così traumatico. Andrebbe proprio visto nel particolare, secondo la mente di Luciano, dov'è che lui ha preso questa informazione e perché per lui l'autunno è così piacevole. Magari c'era una buona ripresa degli studi, magari si facevano delle vacanze che erano forse più stressanti del periodo lavorativo. Allora probabilmente Luciano, nel mettere insieme queste informazioni, prova delle emozioni positive di più al ritorno che non nei periodi canonici di gradevolezza, come per esempio primavera o l'estate. E Luciano riparte, perché d'altronde settembre è proprio tempo di partire, ancora più di gennaio. Settembre è il mese dei buoni propositi, è proprio il periodo dell'anno in cui siamo naturalmente portati a fare progetti. Questo è anche un indicatore della nostra vitalità e soprattutto un po' uno scaccia ansia, Deborah, quindi possiamo chiedere ai nostri ascoltatori, come abbiamo fatto, di dirci come rientrano, ma soprattutto anche di raccontarci, perché no, i progetti che hanno in mente per questo anno che sta per incominciare. Non concentratevi solamente sulle tasse da pagare, perché comunque quelle le abbiamo sempre pagate negli ultimi anni, quindi non è che sia cambiato granché. Concentriamoci su qualcosa di bello. Cuore e denari. L'estate sta finendo, è un anno se ne è. Te li ricordi Righeira? L'estate sta finendo, forse non è mai iniziata, però è finita primo settembre, lunedì. Avevo 14 anni, 15, quindi guarda, non farmi ricordare il medioevo praticamente. E noi partiamo con i Righeira e ripartiamo con il nostro ospite Mirko Labella, psicoterapeuta, e che ci aiuterà a affrontare questi momenti un po' di impasse, dottor Labella, perché quando dobbiamo ritornare a fare qualche cosa ci manca un po' l'energia. E allora abbiamo pensato, dato che ci sono gli ascoltatori, alcuni ci scrivono e ci dicono che si sentono già acciaccati, iniziano a non dormire, iniziano ad avere mal di stomaco, mal di testa. Tra poco ci raggiungerà anche il dottor Carlo Gargiulo, a cui potete fare tutte le vostre racconti sui sintomi e chiedere consigli. Altri invece ci raccontano che fanno fatica un po' a ritornare con la mente. Ecco, la mente è rimasta altrove. Allora con Deborah abbiamo pensato di, prendendo spunto dalle sfide logiche, di proporvi un piccolo quizzettino che vi farà ricevere a casa un libro della libreria altro di che. Cuore Denari. Ne abbiamo tantissimi. Allora, tra l'altro, per naturalmente rispondere correttamente a questo nostro quizzettino, dovete prendere carta e penna, perché vi dovete segnare 5 numeri che io vi darò e voi dovete inserire praticamente il sesto numero mancante, cercare di capire il procedimento logico per cui questo ultimo numero appunto va ad essere il completamento di questa lista. Allora segnate 6, 24, 54, 96, 150. Cercare di capire qual è la logica di questa progressione e qual è l'ultimo numero, il sesto numero appunto che completa idealmente questa lista. Dopodiché naturalmente vi daremo verso la fine. Dottor Labella le ha segnati, sembravano i numeri delle estrazioni del lotto. Eh? Sì, no, non c'è il 150, il 96. Certo, però. Dottor Labella, consigli personalizzati, perché c'è chi fa fatica a concentrarci, noi vogliamo risvegliarlo con questa sfida logica, organizzarci, c'è chi si sente senza energie fisiche e mentali, chi si sente molto attivato, chi troppo, già in ansia. Allora, l'apnea insegna proprio a ragionare su ciascun individuo, comprendendo proprio in base al set biologico, alla sua storia, come gli hanno insegnato a leggere la realtà ai genitori, cosa può fare per rimettersi in equilibrio, l'equilibrio interiore e anche l'equilibrio con l'ambiente che lo circonda, quindi la propria casa, i propri familiari, gli ambienti del lavoro, i propri colleghi, le varie Deborah, insomma, dottor Labella. Certo, allora è vero, in effetti la parola equilibrio è la parola chiave, perché l'apnei è una un'integrazione delle maggiori scienze che permette di capire come la mente non sia a sé, quindi non rifacciamo l'errore di Cartesio, abbiamo imparato dal passato, e mente e corpo sono assolutamente integrate. Cosa dice l'apnei? Che ogni atto emozionale, ogni pensiero è in grado di modificare profondamente il sistema neuroendocrino e il nostro addirittura il nostro DNA. Quindi quando abbiamo degli stress di vita che ci stanno, perché anche l'assenza di stress genera malessere, la parola chiave diventa proprio equilibrio. Allora quando si è stressati, ma lo si è troppo o lo si è troppo poco, si reagisce o iperattivandosi o ipoattivandosi, e allora il ponte tra mente e corpo è proprio quello di saper riconoscere le proprie emozioni. Una difficoltà che è sempre più diffusa è quella di definire le proprie emozioni come ansia. Ansia in realtà ci dice semplicemente che c'è un'attivazione, ma in realtà bisogna andare molto più in profondità. Quindi nello scatolone ansia occorre capire quale delle emozioni di base è accesa, quindi se abbiamo paura, se siamo tristi, se siamo arrabbiati, se proviamo disgusto, oppure se siamo contenti, perché il cuore batte forte anche quando siamo felici. Le basi scientifiche di questo sono state scoperte nell'università di Aalto, che è in Finlandia, dove dal punto di vista biologico si è scoperto come i meccanismi emozionali preparano l'organismo ad affrontare le sfide dell'ambiente, e secondo i principali modelli di neuroscienza la principale coscienza, quindi la presa di coscienza di questi stati, permette proprio un adattamento e una risposta più adeguata al problema. Quindi per essere dottor Labella concreti, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori di scrivere o insomma visualizzare su una pagina o a mente tre cose piacevoli del nostro rientro e dall'altra tre cose che ce lo rendono difficile, perché questo è un esercizio molto semplice che ci permette di dare un nome alle cose e anche di non nasconderci dietro frasi fatte, lamenti troppo generici che non ci portano a nulla, cioè dire sono già stressato, oddio che ansia, o come stavo bene in vacanza, quest'anno non ce la posso fare, non ci porta a nulla di buono. Ecco. Esatto. Quindi oltre a quali sono i tre elementi positivi per cui siamo grati alle nostre vacanze o a quello che noi siamo e a come siamo stati, tre negativi che ci aspettano al rientro, occorre però abbinare anche quale emozione c'è, cioè siamo arrabbiati, siamo impauriti, siamo tristi, proviamo disgusto, oppure siamo contenti. Già avere questo piccolo schermo, questa piccola plancia di navigazione riesce a chiarirci il nostro stato interno, e questo scioglie le sensazioni somatiche, come per esempio quando si tratta di bruciore di stomaco, molto spesso dietro lo zampino e quello di sabbia. Allora abbiamo già i nostri ascoltatori. Altro che 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo ad Ascoli, naturalmente, bellissima città marchigiana. Enzo, buongiorno. Allora, ci dica un po' come sta avvenendo questa ripresa per lei. Intanto è riuscito... È riuscito a farsi qualche giorno di vacanza? Perché sa che quest'anno qualche famiglia... Non molto, non molto, però sono stati imposti qui vicino, a cui sono legatissimo, per cui mi sono divertito veramente. No, ma io non la volevo riportare sul tragico, però per molta gente, per molti di noi, è una ripresa del lavoro, è una... soddisfazione che finalmente il lavoro può riprendere, è questa la, io credo che sia il pensiero dominante. Certo. Era tutto qui. Enzo, fa bene, sai che io non volevo, secondo me tutti gli anni a quest'epoca si parla di stress da rientro. Io oggi vorrei, insieme a Deborah, a voi e ai nostri esperti, proprio parlare invece di ripresa, perché è un termine che è già un'accezione positiva, esatto. Una ripartenza come quella che ci auguriamo arrivi presto anche per il nostro paese, un mettersi a fare con la mente, con il corpo, con più ottimismo, per cui la parola chiave, diceva il dottor Labella, è equilibrio, ma per riprendere, per una ripresa attiva. Quindi grazie a Enzo che ha sottolineato questo aspetto ricaricante. Vogliamo ridire i numeri dei nostri, della nostra sequenza, per invitare gli ascoltatori a questa, a risolvere questa, esatto, sfida logica. Adesso sono certa anche che Marco per altro metterà questa sequenza sul nostro profilo Facebook, per cui avrete anche, se volete, qualche minuto in più per riflettere sul sesto numero che completa questa sequenza. La sequenza è fatta di questi numeri: 6, 24, 54, 96, 150. E vi do un altro numero a cui dovete chiamare, 800 24 00 24, che dovete chiamare per dare la risposta, l'ultimo numero. Devo dirti che intanto qualcuno all'SMS ci ha azzeccato. E allora al primo SMS che ci ha azzeccato, lo vedo anch'io, naturalmente daremo un libro di Cuore, certo, e Denari. Dottor Labella, quindi si riparte. Esatto, quindi si riparte cercando di provare quelle emozioni positive che riescono bene o male non risolvere la crisi del lavoro, anche se c'è, ma farci apprezzare per esempio il lavoro che abbiamo, perché ci sono tante persone che non ce l'hanno, e se invece abbiamo magari perso il lavoro, cercare di capire che potrebbe essere anche un'occasione di crescita. Magari abbiamo perso quel lavoro che tanto odiavamo e possiamo finalmente dedicarci a quello che ci piace, cercare la felicità, cercare di costruire la nostra realtà e la speranza che ci rimane, proprio perché siamo all'interno di un sistema che in questo momento ci sta dando veramente molto molto molte emozioni negative. Imparare a gestirle in questo modo, riuscendo a ritornare su di noi, a essere grati per quello che siamo realmente bravi a fare, essere grati per le persone e gli affetti che ci stanno vicino, può sicuramente darci uno slancio, essere un po' un trampolino per costruire un futuro più roseo per ciascuno di noi. E soprattutto questo è il periodo dei progetti, dottor Labella, questo è anche un indicatore della nostra vitalità. A settembre si riparte, c'è chi si iscrive in palestra, chi magari cerca di avere un atteggiamento un pochino più distaccato nei confronti delle cose che abitualmente lo facevano arrabbiare, esatto, innervosivo, un sano distacco. Sarebbe divertente, come si dice, capire quanto dura poi questo atteggiamento, perché magari il buon proposito si vanifica nel giro di poco, no? Invece qualcuno è più resistente magari. Dottor Labella, ci dia prima di un'indicazione per fare un proposito e mantenerlo anche un po' nel tempo, il tempo necessario, esatto, per goderne i benefici. Allora, il proposito può essere quello realmente di prendere carta e penna e scrivere degli obiettivi che possono essere raggiungibili, chiaramente non cose impossibili, non cose che non siano alla nostra portata, piccoli obiettivi settimana per settimana, verificarli con le emozioni che ci suscita la possibilità di raggiungere questi obiettivi e dopodiché cercare di pensare a che risorse posso avere nel mio piccolo per riuscire a raggiungerli. Basta semplicemente ogni giorno poi guardare questa agenda, questo piano. E ovviamente verificarlo sempre con il corpo, perché ovviamente non bisogna mai fare l'errore di dividere la mente dal corpo, perché siamo un sistema integrato. Infatti un sistema integrato, e per questo noi abbiamo in linea il nostro medico, esatto, di famiglia, dottor Gargiulo, buongiorno. Perché io nel mio elenco delle priorità, buongiorno, metterò diventare una fotomodella, pertanto devo sentire tutti i suggerimenti di stile di vita da parte del dottor Gargiulo, sto scherzando ovviamente. Buongiorno Deborah, buongiorno. Magari sì, non c'ho più l'età di questo tipo, no, non è questione di età, è questione di difficoltà nel dare un consiglio di questo tipo. Invece diamo così a Nicoletta buongiorno, piuttosto, perché non s'offende se non la chiamo per nome. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, dottor Gargiulo. Piuttosto, questa cosa mi piace tanto, quella dei buoni propositi, e allora io vorrei partire da un classico, che è quello di quando ci si saluta, no? Si è stati in vacanza, si sono conosciute delle persone, ci si saluta e si dice mi raccomando non perdiamoci di vista, e ci si perde sempre di vista. Invece il buon proposito che voglio dire io è quello, mi raccomando, abbiamo imparato magari in vacanza a fare un po' più di attività fisica, a stare un pochino più a contatto con la natura, non perdiamo di vista questa capacità, cominciamo, proseguiamo, anzi una volta rientrati in città, in una buona abitudine che ci serva a migliorare l'aspetto fisico, sicuramente a mantenere l'aspetto fisico migliorato, ma a migliorare soprattutto il nostro organismo, perché così possiamo tenere un po' più sotto controllo il colesterolo, tenere più sotto controllo una glicemia che magari fa i capricci, ma ancora tonificare la nostra muscolatura, insegnare ai nostri ragazzi come mangiare, insomma di buoni propositi ne potremmo proprio far tanti a questo punto. E in questo modo possiamo mantenere a lungo i benefici delle vacanze, che anche se sembrano svanire all'improvviso con la ripresa del lavoro, ci sono. Accennavamo con il dottor Labella, che è in linea con noi, al potere benefico e salutare del sonno, magari in vacanza, proprio perché molti di noi hanno spento la sveglia, hanno potuto dormire di più, e lo sappiamo che il sonno è veramente un fattore importantissimo per la nostra salute, dottor Gargiulo. Esattamente, riuscire a riposare le ore giuste è una cosa fondamentale, e le ore giuste sono quelle che vanno generalmente fra le 11 di sera e le 4-5 della mattina, cioè quelle sono le ore in cui il nostro organismo recupera di più. Allora se quelle ore noi riusciamo a sfruttarle bene per dormire, ci consentono poi di affrontare meglio la giornata, di entrare meglio in contatto con tutti quei disagi quotidiani che il lavoro magari o che una vita non sempre gratificante ci pongono davanti. Se abbiamo riposato il nostro organismo riaffronta meglio. A proposito di riposo, aggiungiamo un piccolo consiglio per chi non è ancora rientrato a lavorare. Quando si rientra dalle vacanze, diamoci un giorno di stacco senza riprendere subito il lavoro. Rientriamo dalle vacanze, un giorno per risistemare le nostre cose in casa e poi il giorno dopo si ricomincia a lavorare. Sì, infatti io ho fatto macchinate. Di lavatrici. Venerdì sono venuto, ho fatto un saltino in redazione. Sì. Intanto che parlavo col dottor Labella al telefono per così impostare un po' la scaletta, mettevo a posto un po' di cose. E così lunedì, belle, siamo qua. Esatto, io invece quando ho fatto il mio rientro, il weekend precedente al tuo, sono ritornata, volevo partire sabato mattina molto presto, invece sai che ho fatto? Il venerdì sera alle 9 mi sono messa in macchina e a mezzanotte ero già a Milano, track pronta, bella partire, quindi vedi? Tutto il weekend di lavatrici, cara mia. 800 24 00 24, dottor Gargiulo, a volte proprio in vacanza è il momento in cui noi riusciamo ad ascoltare il nostro corpo, impariamo anche a fare pace con lui, e forse proprio per questa ragione non è infrequente che nel periodo di vacanza si manifestino anche dei segnali, dei disturbi nuovi. Quali sono quelli a cui bisogna prestare attenzione? Ma sicuramente i disturbi a cui dobbiamo prestare attenzione di più sono i disturbi respiratori. Se magari ci accorgiamo in vacanza che abbiamo una piccola difficoltà a respirare bene, perché potrebbe esserci un'allergia che nasconde una forma asmatica, soprattutto nei ragazzi questo è frequente, quindi ecco, attenzione a quella. Ascoltiamo anche il nostro cuore, che in vacanza non si impegna solo per questioni sentimentali, ma che tante volte magari facendo uno sforzo in più, la classica partitella o la corsetta sulla spiaggia o la passeggiata più lunga, ecco che può dare un segnale di un battito fuori misura, un colpettino in più, una velocità aumentata più di quanto ci siamo sforzati. Questi sono segnali che vanno ascoltati, perché quelli sono i segnali che ci portano a magari fare un elettrocardiogramma, che può diventare veramente una modalità per salvarsi la vita. Dottor Labella, quali sono invece i segnali che ci possono far capire che abbiamo ricominciato con il piede sbagliato o rischiamo di farlo? Allora, sono proprio i sintomi di questo blues da rientro, cioè magari avere una cefalea, provare emozioni che sono troppo intense, oppure non aver proprio la voglia di fare, sentirsi un pochino con la testa ovattata. Ora, questo sebbene sia normale, in un momento diventa negativo se tutti questi sintomi permangono. e chiaramente la tachicardia può essere anche data da un'emozione negativa, magari mi ritrovo con quel capo che non mi sta così simpatico e che magari è un po' prepotente. Allora occorre ascoltarsi prima di, chiaramente prima si verifica da un cardiologo che non ci sia niente al cuore, ma se la tachicardia rimane, allora forse è il caso di pensare a un cambiamento, forse è arrivata l'ora e può essere letta come un'occasione di cambiamento e di crescita. Abbiamo Gabriella che ci chiama. Abbiamo subito stimolato i nostri ascoltatori nella loro, come dire, il test della lucidità da rientro, no? Possiamo così ribattezzarlo così. Gabriella dalla provincia di Vicenza, allora si è subito appassionata alla sequenza numerica che abbiamo dato e vediamo un po' se ha azzeccato. Sì, Gabriella. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Allora. Allora il numero successivo dovrebbe essere il 600. Che procedimento ha fatto? Allora la somma delle cifre dà l'input del numero successivo. Allora Gabriella, purtroppo non ci siamo. Non ci siamo. Però bravo, perché l'importante è provarci. Pertanto merita lo stesso un libro. Ecco, dai, e poi aspettiamo. Dottor Gargiulo, cosa le dicono i suoi pazienti in questi giorni quando entrano nel suo ambulatorio? Si lamentano più dei segnali, dei sintomi fisici oppure psichici e mentali? No, sicuramente più dei sintomi fisici si lamentano, perché in realtà i sintomi mentali si verranno fuori un po' più in là quando riprenderanno intensamente magari il lavoro, ecco, un lavoro che non è soddisfacente, che porta a questo disagio psichico. No, per adesso sono i sintomi fisici dovuti in parte appunto a questa possibilità di praticare un po' più di attività fisica e sentire un po' di più il proprio corpo. E poi l'altra cosa che lamentano è il fatto che magari hanno preso qualche chilo, perché se siamo stati in vacanza e non abbiamo seguito un po' le nostre regole, magari abbiamo trovato il villaggio dove si mangiava un po' di più, la colazione frettolosa è diventata una colazione seduti con le brioche, con il burro, con la marmellata, beh insomma a quel punto il chilo, due chili, tre chili è facile prenderli. Sì. E di questi magari si presentano e mi chiedono una mano per poterli riprendere. E lei dai suoi consigli però dirà, mi raccomando, ascoltate anche Cuore Denari, perché della ripresa della linea parleremo sicuramente nei prossimi giorni, dottor Gargiulo. Perfetto, e quindi, quindi ci risentiremo, e poi in questi tempi di crisi è facile riprendere la linea. Ma il primo consiglio che dà proprio lei, dottore, per la rimessa in forma? Quella di provare per una settimana un'alimentazione che sia ricca di verdura, più che di frutta, perché anche la frutta è zuccherina, ricca di verdura, ricca di acqua, con pochi carboidrati e praticamente niente grassi. Settimana in questo modo riesce a far disintossicare, a far portare via facilmente un chilo e mezzo, e allora a quel punto è facile poi rimettersi sulla linea giusta con un minimo di attenzione, nemmeno di sforzo, proprio di attenzione. È vero, perché quando noi vediamo il risultato, il dottor Labella lo sa, ci facciamo subito coraggio e proseguiamo nel nostro percorso. Dottor Labella. Sì, è vero, quando raggiungiamo il risultato facciamo un check di verifica su quanto siamo bravi, e quindi a meno che non ci siano dei problemi sottostanti rispetto al fatto che magari un parte di me non vuole raggiungere un obiettivo, e lì torniamo al discorso della consapevolezza, cioè dello stare nelle cose chiaramente con se stessi, che poi è l'approccio mindfulness, cioè questa nuova modalità che arriva dall'Oriente, quindi di saper meditare su se stessi, che tanta felicità e tanto benessere essere riuscita a dimostrare in studi scientifici, quindi stare con se stessi senza giudicarti, con accettazione, ascoltando il proprio corpo e quindi riuscendo innanzitutto ad emozionarsi. Purtroppo le emozioni sono sempre messe un pochino da parte, ma filogeneticamente in realtà sono i dispositivi più potenti che abbiamo, ed è per quello che hanno la priorità anche sul pensiero. Perché la mente influenza il corpo e il corpo influenza la mente, proprio perché sono due parti della stessa medaglia. E dobbiamo quasi salutare e dare la linea a Nora da Firenze. Esatto, ma posso dire che a Nora fanno compagnia moltissimi ascoltatori, per cui sono tornati dalle vacanze tutti estremamente lucidi e ci fa piacere appunto che si siano cimentati così volentieri nel nostro quizzettone. Nora dalla provincia da Firenze. Nora, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è il numero? Il numero secondo me è il 216. Che procedimento ha fatto? L'ho indovinato? Sì. Sì, perché i numeri successivi al 6 lo contengono in maniera progressiva e crescente di 2 ogni volta, quindi il 6 nel 24 ci sta 5 volte, nel 54 guardi, ci sta 6. Lei in realtà l'ha fatta più difficile di quella che è, perché in pratica ogni termine è ottenuto moltiplicando i numeri corrispondenti nella tabellina nel 2 e nel 3, quindi per quelle tabelline Deborah e io le sapevamo quelle. Ancora del 2 e del 3 abbiamo scelto questo. Nora, per lei un libro di cuore o un libro di denari? Se le fa piacere ricevere entrambi, ma magari così un po' curiosandosi anche attraverso gli sms ne accontenteremo qualcun altro. Nicoletta, dai. Benissimo. Assolutamente, complimenti a Nora. Grazie, grazie al dottor Carlo Gargiulo e al dottor Labella per essere stati con noi per questa ripresa 5 stelle. Buona giornata e un abbraccio ricaricante. Buona giornata. Ottimo, cara, buona ripresa anche a te allora. Grazie. Noi torniamo domani? Certo, con i nostri Laura Vanossi e Marco Lombardo, ma anche Pietro Lacorte in assistenza tecnica. A domani.